Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti anche a questa trasmissione Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, che oggi vede il rapporto tra parola scritta, parola virtuale, con tutte le conseguenze in dare e in avere che questo comporta. Cominciamo con Giulia Faik, oggi anziana signora, ma che ha avuto un passato davvero importante nel cinema come costumista, come scenografa, e anche prima nel Pioniere, giovanissima, quando fu, tra virgolette, arruolata da Dina Rinaldi e da Gianni Rodari per il illustrazioni che ebbero una parte importante nel Pioniere, quindi una memoria che ci collega ai fatti di ieri, alle questioni di oggi, a cui poi seguiranno altri pareri per cercare di creare un mosaico di interpretazioni e ragionamenti su questo argomento. Io sono una drogata come quelli della mia generazione. Io, se non ho il mio giornale, la carta da toccare, se l'articolo non lo leggo, se lo vedo nel computer, non so, mi sembra che mi scivoli via come l'acqua sul vetro. Non mi appartiene. Io ho lavorato molto nel cinema e nel teatro, come scenografo, come costumista, eccetera, eccetera. Ti racconto che c'è stata una grande attrice con la quale ho collaborato una volta, che si chiamava Paola Barboni, la quale, come tutti gli attori, si dava la parte che doveva interpretare battuta a macchina. E io mi ricordo che andavo nel suo camerino e la vedevo che si ricopiava la sua parte nel quadernetto a mano. E dissi: signora Paola, scusi, ma non le hanno dato il suo fascicolo? Sì, Giulia, non ti preoccupare, ma se io non lo scrivo con la mia calligrafia, la mia memoria non la aggrappa. E questo mi fa venire in mente la cultura del computer. Spesse volte la cultura del computer non si aggrappa, non ti rimane dentro come quella letta sul foglio di carta o quella addirittura che tu hai preso l'appunto. Il tuo appunto, i nostri soliti foglietti durante le riunioni pieni di piccoli scarabocchi, di segni che proprio per perdere il tempo, poi magari uno psicanalista lo può interpretare. Però quando poi tu nel tuo foglio hai quei due punti, magari soltanto quelle tre parole, perché non racconti tutto, metti numero 5, quello, numero... È una cosa che ti rimane dentro, e quel foglio, se tu lo vai a rivedere anche dopo delle settimane, quel tuo segno, quel tuo scarabocco ti racconta qualcosa. Il computer non è tuo, il computer è aria, è la famosa realtà virtuale, il Pioniere. A me viene da piangere, ragazzi, che il Pioniere è lo specchio dei nostri sogni, dei sogni della mia generazione, nei quali pensavamo che i ragazzi dopo di noi avrebbero realizzato tutte le cose che noi avevamo sognato di realizzare: la pace, la collaborazione, l'amicizia, tutte parole da usare con la maiuscola alla tedesca, dignità con la maiuscola, amore con la maiuscola, pace con la maiuscola, compagno con la maiuscola. Oggi non sono più né in maiuscola né in minuscola, stanno sul computer, fai clic e scompaiono, non hanno corpo, non hanno senso, hanno soltanto armi. Allora io mi domando, da vecchia signora, riuscirete a ritrovare il contatto con i ragazzi? Riusciremo a trovare il vero linguaggio per dare a loro questi valori? Che questi valori non hanno epoca, erano valori al tempo di Esopo, erano valori al tempo di Cicerone, non sono dei valori momentanei, sono dei valori che vivono in contemporanea con l'uomo, che però in questo momento si stanno perdendo, stanno diventando vuoti di significato. Oggi si sta parlando di energia atomica. Io avevo 18 anni e credo di essermi fatta a tappeto tutte le case popolari di Torpignattara senza ascensore, bussando a decine, a centinaia di case, disturbando la gente e dicendo: per favore, firma qua contro la bomba atomica che il grande Heinz aveva lanciato. E oggi vediamo Trump e quell'altro buffone, sembrano usciti dalla commedia dell'arte se non fossero usciti da Shakespeare. Non so se parli con Falza o se parli con Riccardo III, sono due pazzi a mio giudizio, solo per una cosa, perché parlano delle bombe atomiche come se parlassero di un poker o di un astro da mettere a tavola. Stanno parlando di cosa? Ma da pelle d'oca! E loro ne parlano come se fossero le biglie, come i ragazzi, cioè, la mia biglia è più avanti, la tua biglia è più indietro. Allora, io sento il bisogno, ripeto, da vecchia signora, torniamo alla base, cerchiamo di ritrovare, non so come, perché non sta a noi, la società, il legame per i ragazzi. Cerchiamo di farli, non aderiscono più alle vite i nostri ragazzi. Se i tuoi ragazzi parli della bomba atomica, senti il vuoto, senti che non ti rispondono. Se tu parli della parola di vita, senti il vuoto, non ti rispondono. Si sono isolati, stanno in una bolla d'aria, in una bolla di sapone. Basta a noi rompere questa bomba di sapone, perché se domani doveste, spero di no, succedere qualcosa, questa bomba di sapone si romperà e saranno loro i primi a pagare. Bolle, mille bolle blu, bolle per incornarle, bolle, mille bolle blu che volano, e volano, e volano. Bolle, mille bolle blu, blu, mi sento dondolare, bolle, mille bolle blu che danzano, su grappoli di nuvole. Gioia se vedo passeggiare nel vento le mille bolle blu. Un bacio ancora, un bacio s'avvicinano. Eccole, eccole, sono qui. E dopo le innocenti mille bolle blu della mina degli anni 60, invece passiamo a questa chiacchierata tra Morena Moretti della nostra redazione e Patrizia D'Antonio, ricercatrice dell'Università di Bourgogne-Conté ed esperta in particolare nelle materie inerenti alla questione giovanile, che ci dà un suo panorama sull'editoria per ragazzi. Patrizia, veniamo alla letteratura appunto per ragazzi, come intenzionalità di scrittori riguardo alla destinatari, i giovani destinatari, insomma, sia in Italia alla fine dell'Ottocento, ovviamente il grande De Amicis, che è il nostro rappresentante più noto anche internazionalmente, è sicuramente un esempio di una trasformazione, no? in quel periodo. E c'era un'intenzione in De Amicis che era di avvicinarsi e di parlare veramente alle classi popolari, Insomma, le derive sono, come sappiamo, piuttosto moraleggianti. Dobbiamo aspettare Collodi per avere invece una visione di direi più libera, no? Insomma, perché il Pinocchio collodiano di Lorenzini sicuramente rappresenta un tipo di fanciullo, un racconto formativo che insomma, avventuroso, però, ribelle. Sì, che dà un fallocchiolino senz'altro a questo spirito libero, insomma, ribelle, come dicevi appunto del Ma una curiosità, si dice che Collodi non abbia concluso il suo libro con il burattino che si trasforma in sì. bambino, ma tu ne sai qualcosa? Sì, allora, la storia di Pinocchio è assolutamente interessante perché Lorenzini, che era uno scrittore, giornalista, compulsivo potremmo dire, ma non è che avesse veramente voglia di scrivere questa storia del burattino. Fu spinto dall'editore fiorentino, insomma, dicendo che lui aveva scritto già dei raccontini per i giornali, e quindi iniziò così con le pubblicazioni nel giornalino. Ebbero molto successo e quindi gli fu chiesto, insomma, di continuare. Fu proprio pressato dall'editore di mettere termine a queste avventure si chiamavano le avventure di Pinocchio. E inizialmente, infatti, non, il finale e alcune avventure non corrispondevano, insomma, a quelle poi pubblicate in seguito nella raccolta del libro. Ma insomma, poi ci furono traduzioni internazionali, ebbe un successo internazionale, quindi rimane però, ecco, un punto sicuramente cardine nell'evoluzione della letteratura per l'infanzia in Italia. E questa figura di dietro c'è tutto un mondo, insomma, della relazione tra adulti e bambini che evidentemente esprime un cambiamento. Insomma, il Geppetto è qualcuno che, insomma, che anche esercita una autorità relativa, insomma, sulla figura del bambino che cerca la sua strada e poi, insomma, queste cadute moraleggianti che sono oggetto, insomma, di attenzione moraleggiante da parte del grillo parlante e di altri. Ma Ma torniamo alla chiacchierata tra Morena Moretti della nostra redazione e la Patrizia D'Antonio dell'Università Bourgogne-Conté di Parigi. Ecco, il grande cambiamento qual è? Il fatto che si concede il divertimento, perché la questione è sempre stata questa nell'ambito della letteratura dell'infanzia. È stato il dibattito tra la cerniera, insomma, il punto di confine tra l'intento moralistico e il divertimento. Allora, e questo risale appunto dai cosiddetti exempla, cioè i raccontini sulla vita dei santi, torniamo indietro nel tempo, nei raccontini esemplari, no? Sono piccoli insegnamenti che si volevano dare. E il Pinocchio è forse la primavera. Il punto di svolta, sì, esatto, diciamo. Parte, insomma, resta ambiguo. Eh sì, perché include invece il puro godimento del. Perché poi dopo, diciamo, c'è più un intento educativo, perché, diciamo, intento moralistico, però forse nella letteratura successiva si comincia ad affrontare la letteratura per ragazzi il libro per ragazzi più con un intento formativo educativo che con un intento moralista, o resta questa? Beh, questa ambivalenza è chiaro che è sempre presente in un certo senso. Il punto è che la trasformazione, ma anche del mercato con la letteratura di massa, insomma, si crea un mercato tale per cui gli stessi, come dire, consumatori, insomma, i giovani consumatori determinano il mercato, parliamoci chiaro, insomma. Le tante opere moralistiche non hanno il successo certamente che poi appunto ebbe Pinocchio, oppure le cosiddette pinocchiate che poi successive. Poi ci fu anche un po' l'introduzione dei cartoni dei Fumetti. fumetti e quindi la resistenza a questo tipo di Di linguaggio, intrattenimento, sì. ecco, quindi tra l'intrattenimento, per così dire, e l'aver presente un libro che sia anche sempre formativo, c'è stato sempre un dibattito, ma così come anche il recuperare un patrimonio tradizionale, no? I famosi racconti, insomma, che anche da Luigi Capuana, per tornare indietro nel tempo, fino a Italo Calvino, insomma, nella sua raccolta delle fiabe italiane. Portano dietro una tradizione forte italiana, insomma, che rimonta addirittura, insomma, al Decamerone, al Pentamerone, sì, certamente non indirizzati all'infanzia, ma poi materiale riutilizzato invece fortemente, adattato. Cioè, quindi c'è il gusto e l'intenzionalità anche nel piacere, nella lettura come piacere che avviene, insomma, ovviamente nel secolo scorso Adesso ti faccio una rispetto domanda da, come si dice in questi casi, da mille punti. mille punti. No. Secca così, lo stato di salute dell'editoria dell'infanzia in Italia oggi. In Italia attualmente, senz'altro c'è una diffusione, ecco, parliamo della trasformazione del secolo scorso. Il grande dibattito resta però, c'è la critica, insomma, ancora sente uno scollamento, evidenzia uno scollamento tra quelli che sono i gusti, i gusti, diciamo la spinta di un mercato editoriale che è sempre più commerciale, indubbiamente, e quello invece che dovrebbe essere ancora con forte delicatezza e attenzione, considerata una parte importantissima della crescita di un mondo, che è il mondo dell'infanzia. Quindi, in soldoni, significa che ben vengano libri che si avvicinano al gusto dei ragazzi, ma da questo a di prestare scarsa attenzione alla qualità, all'uso della lingua, ai messaggi che si vogliono far veicolare, insomma, ci corre parecchio. Dopodiché, come sai, il mercato è sempre quello che condiziona anche gli autori, indubbiamente. Ce ne sono di ottimi, ma bisognerebbe, penso, onestamente, fare di più. Questo poi tu lo sai, io lavoro molto sulla comparazione tra altre letterature, quella francese per l'infanzia. Quella inglese che resta ancora, e americana, che resta ancora sicuramente dominante nel mondo, e insomma la spinta, il sostegno, l'attenzione anche legislativa, ma anche del mercato, in effetti è più forte che in Italia. Quindi, insomma, molti più autori trovano spazio, trovano modo di essere. C'è un'attenzione anche alla varietà, ecco, noi importiamo ancora molto e questo forse è segno anche da una parte di una scarsa valorizzazione, insomma, di uno scarso interesse, a fronte certamente di un mercato che comunque si è ampliato. Thank you. Quali sono le parole da usare con i bambini e quali i concetti? Secondo Rodari non bisognava assolutamente bambocciare, anzi. Non bamboleggiando, ma semmai un gradino più in su, perché al bambino piace salire un po'. Quando è molto piccolo e gioca a spostare i mobili, lui vuole spostare subito il tavolo che è più pesante, non si accontenta di spostare il seggiolino che è piccolo. Perciò il linguaggio è una cosa che deve farlo crescere. E commisuriamo allora queste parole di Gianni Rodari con il mondo dell'editoria attuale, scrittori, illustratori, editori, e lo facciamo col sempre presente e importante aiuto di Simona Sagone dell'Associazione Iucali, che ha fatto questa piccola indagine nel mondo dell'editoria attuale per ragazzi. Quali sono gli ingredienti essenziali oggi di un buon libro per l'infanzia? Quindi abbiamo voluto indagare il linguaggio che deve essere usato nei libri per ragazzi. In particolare ci siamo soffermati sulla questione delle parole difficili. Ci devono essere o non ci devono essere nei libri per ragazzi parole difficili, parole che i ragazzi devono conquistarsi, andare a scoprire il significato di queste parole. Cominciamo con l'intervista a Coccole Book con l'editrice Daniela Valente e Ilario Giuliano. Buon ascolto! Daniela Valente, tanti autori si lamentano con gli editori perché gli eliminano le parole difficili. Perché bisogna togliere le parole difficili? Si rischia un impoverimento del linguaggio per i bambini? Non bisogna togliere le parole difficili, anche negli albi illustrati. E ci sono esempi abbastanza famosi ormai, penso al Paese dei Mostri Selvaggi, a Sendak, dove le parole difficili ci sono. Non usarne troppe, questo sì. Quindi usarne con cautela, ma usarle. Quindi no alla censura delle parole difficile negli albi illustrati. Andiamo a scoprire le risposte di Anselmo Roveda. Per me, io sono molto severo anche con i miei editori, nel senso lotto proprio su questa cosa, nel senso che ed è una lotta in realtà che molte volte condividiamo, perché penso, in buona compagnia, che ogni libro, anche un libro per un lettore adulto, rappresenta una sfida, un'occasione, rappresenta l'occasione di conoscere, imparare cose in più, cose nuove. Ovviamente organizzando un testo in una lingua che sia la lingua dell'autore, una lingua piacevole, una lingua contemporanea, una lingua efficace, però mai rinunciare o censurarsi o lasciarsi censurare rispetto ad alcune scelte che, proprio perché magari immediatamente non comprensibili, arricchiscono la curiosità. Cioè, anche noi grandi talvolta leggendo dei libri abbiamo una parola che non c'è immediatamente chiara. Il contesto aiuta, chiarisce, ci invoglia alla ricerca, ci fa imparare non tanto le parole nuove, ma molte volte la sintesi di una parola rappresenta, ci chiarisce meglio un concetto che abbiamo in testa in un modo un po' confuso. In un mio libro ho deciso ad esempio di parlare esplicitamente usando la parola omertà, che incuriosiva uno dei protagonisti, perché si può rappresentare, si può dire, si può spiegare in molti modi quella parola lì, ma quando noi impariamo che quel tipo di atteggiamento è riassumibile in quella parola, c'è immediatamente più chiara, la possiamo fronteggiare diversamente. In un altro mio libro, ormai di molti anni fa, il verbo ghermire, che era un verbo non immediatamente accessibile, anche perché si tratta di un albo illustrato per piccoli, però rendeva esattamente quello che io volevo dire, e nelle letture poi ad alta voce con i bambini vedevo che quel ghermire era così oscuro in quel momento che rendeva perfettamente la paura di essere presi, catturati, rapiti, portati via. Allora quella parola diventava poi significante, significativa in modo. Siamo in compagnia dell'illustratore Enrico Machiavello. Temo che non solo nella letteratura, nei libri per ragazzi, si tenda ad andare verso un minimo comune denominatore, ed è un errore, perché comunque vedo che i bambini e i ragazzi hanno vocabolari molto ricchi. Chiaramente sono settoriali o limitati, però molte volte hanno proprietà di parola molto, molto importanti, e quindi togliere queste parole complesse secondo me non aiuta i bambini a crearsi appunto il proprio arsenale di parole per il linguaggio. Monica Martinelli, 7-9 edizioni. Del tipo di libro. E noi ci occupiamo sia di saggistica che di letteratura per l'infanzia. Nella letteratura per l'infanzia non abbiamo tolto parole difficili, abbiamo usato la parola prontuario per un libro dei mestieri, abbiamo usato tanti congiuntivi in un primo libro, tant'è che ricordo che ci fecero i complimenti per l'uso dei congiuntivi, per me fu una cosa, cioè nel senso non ci pensa nemmeno nel toglierli. In questo caso le parole difficili sono rimaste. Nel caso della saggistica invece, nel nostro caso, le parole difficili io tendo a toglierle, perché la saggistica di 7-9 deve essere di carattere divulgativo, è un modo per portare all'attenzione del grande pubblico dei temi dei quali l'Accademia ha parlato già tantissimo, ma in termini talmente complicati che nessuno li conosce. E allora una collana che si chiama Scegliino cerca di fare da collegamento tra l'Accademia e l'opinione comune, diciamo. Quindi in quel caso le parole difficili tendiamo a limitarle. Tra gli stand della fiera abbiamo fermato lo scrittore Antonio Ferrara. Nei libri per ragazzi ci devono essere le parole difficili, oppure bisogna censurarle, metterle più facili? Certo che ci devono essere le parole difficili, così come un libro per ragazzi non deve essere meno dotato di trama, linguaggio, struttura. Naturalmente deve muovere parole misteriose che stimolino anche l'immaginazione. La mia collega Chiara Carminati, che è più poetessa che scrittrice, ma è anche scrittrice a tutti gli effetti ormai da qualche anno a questa parte, che una volta ha detto in pubblico a un incontro, io ho memorizzato il prezioso consiglio, dice: anche nelle mie poesie per i bambini più piccoli io nascondo sempre in ciascuna di queste poesie una parola molto difficile, è il mio regalo per quei bambini. Supercalifragilisticexpialidocious, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Supercalifragilisticexpialidocious. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va mai?